La pace oggi sicuramente vivremo in altre circostanze, quindi ci sono eventi che vanno ricordati perché la memoria è importante. Quindi modellerò questo evento per l'appunto su un volume dal titolo La finestra della libertà, frontiera per un'altra Europa. Modera la sottoscritta, l'autrice Giuseppina Di Stasi, che probabilmente già vi dirà qualcosa, e edito dalla Edu di Roma, qui vanno anche i miei migliori saluti. Ringrazio anche la Pela Libri per permettere la diffusione di queste tematiche sicuramente importanti. Quindi restate con noi, un suggerimento musicale brevissimo e poi una bella sorpresa, un editore autore. Mi fermo qui per non svelare troppo. Restate con noi, Radio Alma, Bruxellando, Maridì. Cari amiche, cari amici, continua il viaggio di Bruxellando tra i libri, la parola e la scrittura, e sono veramente contenta perché questa sera è nostro ospite, in collegamento telefonico dall'Italia, un nome, partiamo dal nome, perché è un nome che avete sentito molto, molto spesso, soprattutto lo scorso anno, e pensavamo fosse solo un editore, invece no, abbiamo scoperto che è anche autore. E saluto Simone Marchi per aver ci ha dato la possibilità di intervistare in qualità di autore questa sera Giulio Perrone dell'omonima casa editrice. Giulio, benvenuto a Radio Alma, Bruxellando. Grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Questa sera ti intervistiamo non a proposito del tuo ruolo di editore, ma di autore, già che hai pubblicato con Rizzoli il romanzo dal titolo L'esatto contrario. Ora, che la tua passione per i libri è evidente, insomma, penso che lo abbiano compreso anche i nostri amici ascoltatori, ma cosa nasce prima, la passione per l'editoria o quella per la scrittura? Nasce prima quella per la scrittura perché io ho avuto la fortuna quando ancora andavo a scuola di avere tra i miei insegnanti Walter Mauro, che è stato un critico letterario molto importante, e quindi spinto un po' da lui ho cominciato in tenerissima età, quindi già al tempo di liceo, a scricchiare delle cose, poesie, racconti, eccetera, che per fortuna ora sono scomparsi nei meandri del passato, quindi non recuperabili fortunatamente, però che mi sono serviti per iniziare a fare delle cose, ad appassionarmi anche a quel percorso che secondo me è fondamentale e che deve andare insieme tra lettura e scrittura, sempre si è appassionati di libri. E poi in realtà questo percorso io l'ho interrotto proprio quando ho aperto la casa editrice nel 2005 perché ho cominciato ad occuparmi dei libri degli altri, che è una cosa che mi piace molto, che è molto emozionante, e quindi la scrittura è rimasta un po' da parte e l'ho ripresa solamente un paio di anni fa quando ho cominciato a lavorare a questo progetto. Allora, chi è Giulio Perrone? Questa è una domanda complicata, ma sicuramente credo di essere un grande appassionato di libri rimanendo in questo settore, però anche di altre cose, perché io sono convinto, e questo l'ho sempre detto anche agli autori con cui ho lavorato, che la scrittura provenga anche dalla propria esperienza di vita, quindi prima di tutto bisogna essere, oltre che degli ottimi lettori, oltre che avere una base minima di talento per poter scrivere, bisogna soprattutto vivere, cioè affrontare l'esistenza, l'esperienza, essere curiosi, interessarsi agli altri, perché poi quando vai a costruire un personaggio, per esempio in un libro, inevitabilmente ti trovi a rubare dalla vita, a rubare dalle persone che ti stanno vicino, da quello che ti ha colpito e che hai visto anche in una singola occasione, perché magari sei costretto ad affrontare all'interno di una trama un personaggio particolare. E allora come lo vai a immaginare per uscire fuori dai cliché? Lo devi immaginare da qualcosa che hai visto, da qualcosa di cui sei stato partecipe, quindi la curiosità, secondo me, lo stare dentro il mondo è fondamentale. Per cui questa è una delle cose che mi hanno sempre caratterizzato e che serve anche per il lavoro che faccio. E quindi sicuramente una persona curiosa, questo sì. Poi un editore, l'hai detto tu, uno scrittore inizia adesso, speriamo che non sia male. Senti, allora, brevemente, voglio approfittare veramente della tua presenza questa sera. Noi ricevamo molto spesso email, suggerimenti su Facebook su come scrivere una storia. Allora, secondo te, nella tua esperienza, mi collego a quello che dicevi proprio poc'anzi, se qualcuno quindi ha una storia e sente che vale la pena raccontarla, vale la pena imbarcarsi nella missione impossibile di arrivare ad una degna pubblicazione? Con tutti i se del caso, eh? Un grande sì. Io credo di sì, cioè io nel senso io sono sempre stato affascinato e per me la prima sfida è stata quella dalla capacità di un autore di chiudere un libro, perché scrivere un racconto, scrivere una poesia è una cosa differente, anche se poi ha delle difficoltà diverse, eh. Però riuscire a portare a termine un libro, soprattutto un romanzo, comporta uno sforzo molto grande. E se ci pensiamo bene, la cosa è paradossale, però lo sforzo e l'impegno ce lo mette sia chi scrive un capolavoro, sia chi scrive un libro non valido. Cioè c'è quel lavoro enorme, no, di chiusura del libro, di immaginazione, di costruzione dei personaggi, di trama. Per cui io credo che è una sfida che vada raccolta. Poi con la consapevolezza però che a volte può arrivare a buon fine, cioè a volte ci può essere anche la capacità, il talento, l'idea anche di un libro che può essere pubblicato, in altri casi no, bisogna avere il coraggio di raccogliere la sfida e di accettare anche il responso, cosa che invece molto spesso gli autori fanno fatica a fare. Io mi rendo conto che poi ricevere un no, ricevere un rifiuto è sempre brutto, però va messo in conto, proprio perché è una sfida che si va a percorrere. Poi se si crede veramente in quello che si fa, si è convinto di poter fare qualcosa, si può anche mettere da parte quello che c'è scritto e scrivere un'altra cosa. E quindi no, è una sfida che sicuramente va, secondo me, raccolta se si ha la voglia e la convinzione di poterla fare. E, però cercando, ripeto, di essere dei lettori, io ribalto sempre la cosa, ma è importante, perché se non si leggono, penso non si leggono soprattutto i contemporanei, si scrive al tempo in cui noi stiamo scrivendo, si fa fatica ad essere originali, si fa fatica a trovare delle strade nuove, perché si tende a cadere nei cliché. Di solito chi non ha nessun tipo di immaginazione o di capacità di rendersi un libro interessante spesso è una persona che ha letto poco, questo è assolutamente una certezza. Quindi non basta avere il talento, insomma, non basta avere una penna felice, diciamola così, ma è un mix di cose. Allora veniamo alla tua scrittura. Quando è che hai deciso di mettere su carta, per esempio, l'esatto contrario? È nato, poi c'è da dire che il libro ha avuto una sua gestazione particolare, nel senso che ha cambiato in tante fasi, però diciamo le primissime 50-60 cartelle sono nate alla fine del 2012, in un momento in cui avevo in testa da un po' di tempo una parte della storia, soprattutto diciamo quello che è l'avvenimento tra virgolette criminale che dà avvio alla vicenda e che poi torna nella vita del protagonista a coinvolgerlo, perché quella era una cosa che avevo letto proprio dalla cronaca, che mi aveva colpito in parte, insomma poi l'ho leggermente cambiata ed è stato il punto di partenza del libro. Dopodiché da lì ho cominciato e devo dire che una spinta è arrivata anche dal trovare dall'altra parte delle persone che erano interessate a quello che stavo scrivendo. E come dicevo però ha avuto una sua evoluzione, cioè è cambiato a più riprese fino a che poi non l'ho concluso a metà dell'anno scorso. Ci racconti brevemente la trama, brevemente, solo per dare un assaggio agli ascoltatori? Diciamo che quello che a me interessava era di ragionare sul protagonista. Il protagonista si chiama Ricciardo e ha intorno ai 35 anni ed è un personaggio che nella vita aveva una serie di punti fermi da cui era partito, e che voleva realizzare 10 anni prima esattamente a quando inizia il libro, al momento dell'attualità, era fidanzato, aveva l'obiettivo di diventare giornalista e poi ci metto dentro un'altra cosa, nel senso che lui si collega, anche essendo un grande appassionato di calcio, al fatto che la Roma potesse vincere il scudetto. Bene, le tre cose si distruggono l'una dopo l'altra e paradossalmente la prima che viene meno non è tanto l'avventura calcistica, che pure dopo un breve tempo finisce male perché quell'anno la Roma non vince lo scudetto, ma precedentemente lui non riesce o comunque comincia a vedere che non riesce a fare quello che vorrebbe, cioè il giornalista, e si lascia anche con la sua fidanzata dell'epoca. Quindi è una figura un po' particolare, nel senso che è un 35enne che è arrivato a un punto della sua esistenza senza aver costruito tanto, ma senza neanche essere disperato, nel senso che lui ha delle piccole cose che lo tengono a galla, agli amici, a dei compagni di casa con cui divide questo appartamento a San Lorenzo, che sono molto particolari, ma che rappresentano quasi una sorta di piccola famiglia che si è costruito, ha il calcio che comunque ad alterne fortune però lo sostiene, è un ragazzo un po' goffo ma che comunque riesce ad avere un minimo di successo con le donne, quindi ha quelle 4-5 cose che lo tengono a galla, che gli consentono di andare avanti, ed è una cosa che io ho notato essere fortemente presente oggi in molti coetanei, in molti ragazzi di quell'età, e quindi mi interessava capire se si è in una condizione come quella, che cosa ti può scuotere, e soprattutto se poi la vita a un certo punto ti mette di fronte a un avvenimento forte, che per lui è il riemergere di una vecchia storia che l'aveva colpito, perché muore una persona, un professore, uscito da poco di carcere, perché a sua volta aveva magari non essendo tra l'altro preposto a quel tipo di professione l'investigatore a cercare delle soluzioni e poi si sviluppa la storia in questa direzione. Perché un giallo? Perché mi è sembrato congeniale, nel senso che forse sarebbe stata una storia dopo tutto con questo protagonista che avrei potuto raccontare anche in modo diverso, però penso da una parte che comunque ancora adesso il noir, il giallo, il thriller, chiamiamolo come vogliamo, è uno strumento molto interessante per raccontare la realtà di oggi, ma non solo perché la nostra possa essere una società violenta, questo è molto relativo anche perché poi il libro è poco all'interno di meccanismi violenti, quindi non è che vengono raccontate scene forti o ci sono chiaramente degli omicidi, ma non è quello il fulcro, ma credo che dopo tutto sia una società, soprattutto in chiave noir, cioè una società in cui poi il tema è esistono ancora i buoni e i cattivi o quanto si riesce, anche se si sta o si crede di essere dalla parte del giusto, ad essere completamente irreprensibili. E soprattutto poi, questo è un altro punto che mi interessava molto, in fondo anche questo protagonista, questo personaggio che viene scosso e quindi comincia a vivere una vita per certi versi differente, più coinvolgente, più forte, più passionale, fino a che punto vai avanti oppure poi ti fermi. Cioè alla fine invece la tua vita tranquilla, le tue quattro cose che ti danno tranquillità in fondo ti spingono a non andare oltre. Questo è un altro tema che mi interessava. E in fondo penso che la nostra è una società così, in cui sono più le sfaccettature e più il grigio che il bianco e il nero. Cioè non ci sono più grosse contrapposizioni, ma c'è un mondo in cui a volte si è a buoni, a volte si è cattivi, chiaramente senza arrivare agli estremi, ma soprattutto si fa fatica a orientarsi. Assolutamente. Quindi secondo te... ora salto di un paio di domande rispetto a quello che avevo programmato, però insomma mi incuriosisce anche questa tua ultima affermazione, perché c'è una cosa che mi colpisce, che comunque gli italiani leggono poco, però quando si tratta di giallo, il giallo mi sembra di capire uno di quelle nicchie letterarie che non muore mai, che continua sempre ad alimentare nuovi lettori. Come mai secondo te? Ma io credo che ci sia stata anche una capacità di reinventarlo, nel senso che ci sono tanti autori all'estero da sempre, ma anche in Italia, che hanno cominciato a guardare al genere in maniera un po' più ampia, cioè mettendo dentro anche dei protagonisti diversi, anche forzandolo, in fondo andando fuori, io l'ho fatto sicuramente, dalle regole auree che caratterizzerebbero un giallo secondo la struttura classica, e lo fai cambiando i protagonisti, immaginando delle storie diverse, immaginando il fatto soprattutto, e per questo per me è stato essenziale fin dall'inizio, che il protagonista non fosse un addetto ai lavori. Io non volevo assolutamente un poliziotto, un avvocato, un magistrato, un criminologo, uno che sta sulla scena del crimine come va di moda, poi anche recentemente gli americani lo fanno molto bene, ma volevo che riguardasse la persona comune. E altri autori che io apprezzo molto, no? Penso a Malvaldi, penso a tanti autori di grandissimo livello, anche italiani, sono riusciti a modificare questa visione delle cose, cioè a cambiare leggermente il punto di vista. E quindi credo che sia un genere dopo tutto vivo, ma credo sia vivo soprattutto perché purtroppo, o per fortuna, non lo so, rispecchia molto la realtà contemporanea. Senti. Ce la racconta, come la vediamo noi, non solo come ci viene detta da qualcun altro. È interessante quello che dici, perché in realtà è vero che il genere giallo, soprattutto quello italiano e quello dell'ultima generazione, è un po' diverso da quello che si legge soprattutto qui in Belgio, che pure è patria insomma di questo genere, che è un misto tra giallo e poliziesco, che poi qui hanno chiamato polar. Però allora secondo te ci sono delle tecniche narrative diverse? Cioè un giallista ha delle qualità, o meglio, ha più qualità rispetto ad uno scrittore che magari si dedica ad altri temi? Perché insomma, creare la suspense, creare dei personaggi anche con determinati talenti, come nel caso del giallo, che sia esso l'ispettore, il poliziotto, l'avvocato, oppure nel tuo caso una persona qualunque, richiede uno sforzo in più in termini di scrittura, oppure no? Quando hai un'idea, l'idea è quella e allora si crea mano a mano che scrivi. Ma sicuramente ti costringe ad avere un'attenzione e un occhio maggiore alla trama, che secondo me per quello che riguarda gli autori italiani è una cosa che ti aiuta, fondamentale anzi, perché noi abbiamo un tipo di letteratura, in alcuni casi tra l'altro molto bella, in cui tanti scrittori che sono dei veri e propri virtuosi del linguaggio, della scrittura, dello stile, tendono però a volte a dimenticarsi che in un libro è importante anche raccontare una storia, cosa che per esempio la tradizione anglosassone non ha, perché per la tradizione anglosassone la storia resta sempre in filigrana importante al di là del tipo di stile che l'autore affronta. del genere ti costringe comunque, per come tu lo prenda e per come tu lo voglia raccontare, a dover stare dentro a una storia, cioè a dover necessariamente raccontare una storia. E questo a me piace molto, e quindi credo che sia un altro dei punti di forza. Dopodiché credo che la cosa importante oggi ottenuta è che in fondo il genere, qualsiasi tipo di genere, venga preso in considerazione da tutti i punti di vista, sia da quello del pubblico che da quello del letterario, mentre prima, sappiamo bene, anni fa l'unica letteratura veramente importante era quella fortemente letteraria, era quella mainstream, cioè il genere era visto di cattivo occhio. Oggi non è più così, però non direi che è superato, cioè è sullo stesso piano. Secondo me si può scrivere anche un ottimo romanzo che non abbia nessuna attinenza con il genere. L'importante, ripeto, a mio parere, è cercare il più possibile anche di raccontare una storia. Assolutamente. Allora, tra i protagonisti, non l'abbiamo citata ancora perché non ne abbiamo parlato, ovviamente, per non svelare troppo, ma tra i protagonisti ovviamente c'è Roma. È stata una scelta necessaria, quindi un tributo alla tua città, oppure invece è legata proprio ad eventi che in particolare hanno suscitato quindi la tua curiosità di scrittore? Ma il legame con gli eventi c'era anche, però credo che sia stata una necessità, perché penso che soprattutto all'inizio di un processo di scrittura sia importante cercare di raccontare quello che si conosce meglio. Mm-hmm. In più, in qualche maniera, ci sono state delle cose a me vicine, dei posti che ho visto, delle persone che ho conosciuto e che mi hanno ispirato alcuni dettagli dei personaggi che poi sono dentro al libro e che erano fortemente legati a Roma e anche e soprattutto a San Lorenzo, che è un quartiere particolare dove vive il protagonista. E infatti la casa che ho scelto era una casa di un carissimo amico che quindi ho conosciuto, che ho vissuto, in cui sono stato in molte serate e che quindi mi aveva comunicato un certo tipo di sensazioni. Come del resto, per una serie di ragioni, negli ultimi 2 anni ho passato molto tempo a San Lorenzo, che è stato un quartiere che mi piace, che mi ha comunicato tanto. Quindi è stata neanche quasi una scelta, proprio qualcosa che è venuto da sé, è stato quasi automatico immaginare che ci fosse Roma, per una serie di ragioni, anche legate a questa forte passione che dicevo del protagonista per il calcio, al fatto che comunque è una città molto strana, molto che sta cambiando molto, anche se poi dall'esterno viene vissuta sempre come la città dei monumenti, come quei 4-5 posti che chiaramente sono così importanti a livello mondiale che tendono a fagocitare tutto, però in realtà poi ci sono molti quartieri in movimento, ho citato San Lorenzo, ma potrei parlare di Garbatella e tanti altri quartieri che stanno cambiando dentro Roma e che sono molto interessanti. In realtà è vero, Roma, soprattutto per noi turisti, resta nel cuore, soprattutto per alcuni posti, e chissà quanti ce ne sono che non conosciamo. Quindi hai svolto delle ricerche invece, ricerche particolari per alimentare la veridicità della storia? Ma mi sono, sì, un minimo sì, però in realtà per quello che riguardava i luoghi, i posti, sono stato, ho cercato di essere, di stare in luoghi che conoscevo bene, che erano familiari, quindi non ho avuto la necessità di andare ad approfondire troppo per le location, perché erano tutti i punti della città che in qualche modo mi appartenevano. E per il resto sì, un minimo, però ti ripeto, la scelta anche del protagonista che si muove un po' a carboni mi ha consentito anche di poter ragionare, essendo il libro scritto in prima persona, in maniera molto più libera rispetto a come avrebbe dovuto fare un vero investigatore che avesse in mano e in mente chiaramente quelli che sono gli strumenti di indagine e tutte le varie procedure. Quindi questo mi ha facilitato molto il compito, il fatto che il protagonista fosse come me un non addetto ai lavori. E c'è un mistero, a proposito di misteri, di giallo, un mistero italiano che ti intriga? Ne abbiamo tanti. Ma guarda, ce ne sono molti, poi ormai... Forse troppi, ormai. Di questo sono diventati tantissimi, ma io devo dire che quello che mi ha affascinato di più sono sempre delle cose che vanno un po' troppo indietro nel tempo rispetto all'attualità, nel senso, non so, adesso mentre tu parlavi, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata Emanuele Orlandi. Ah, certo. Perché quel periodo è un periodo che a me affascina molto nella sua drammaticità, che va da quello in cui poi Roma è stata centrale, no? Pensiamo dalla banda della Magliana, alle Brigate Rosse, alla politica, a tutta una serie di meccanismi che poi si sono uniti insieme e hanno creato un paese strano dove tanti enigmi sono ancora irrisolti. Però sì, quelli sono quelli che mi affascinano assolutamente di più. Quelli di oggi, che poi sono più vicini anche a quello che io ho raccontato, li trovo non meno interessanti, ma forse più spaventosi, nel senso che sono drammaticamente contemporanei a noi, cioè vedendo quello che è accaduto, non lo so, a donne che sono scomparse o a bambine che sono state uccise in maniera brutale, ti rendi conto di quanto purtroppo non sia una realtà che puoi spingere troppo lontano da te. Questo è veramente drammatico, cioè ti rendi conto che è molto vicina, che se quel fatto fosse accaduto a due palazzi da casa tua, dopo tutto non sarebbe stato così assurdo, e questo credo che un po' spaventi. Forse scrivere i libri ti consente anche di esorcizzare certe paure. Assolutamente, sono d'accordo con te. Siamo verso la fine, perché come sai il tempo in radio è oltremodo tiranno. Assolutamente. Sei a cena con il tuo autore preferito, poi decidi tu se vuole essere un autore che hai letto o un autore che hai pubblicato. Di chi si tratta e cosa ti piacerebbe chiedergli? Allora, ci sono diversi autori che questa è una cosa ricorrente, poi che viene posta in un altro modo, cioè gli autori di riferimento è sempre una cosa drammatica, perché poi di solito sono sempre molto lontani da te in realtà a livello di scrittura. No, forse sceglierei Cormac McCarthy, però. Che è uno scrittore che io adoro, insieme ad altri due, che sono uno Guillermo Arriaga e l'altro è Joe Lanchel. Non lo so, gli chiederei come si può scrivere un romanzo eccezionale come Strada, cioè che secondo me resta un libro incredibile, perché per carità lui ha scritto tutta una serie di romanzi eccezionali, però quel libro che io ebbi la possibilità di leggere tra l'altro poco prima che uscisse in libreria, mi lasciò diverse notti a riflettere come fosse possibile scrivere a quel livello, cioè avere la capacità di costruire un libro in fondo con due personaggi, padre e figlio, che attraversano un mondo distrutto e riuscire sempre a tenere un ritmo narrativo eccezionale e con una scrittura a grado zero, cioè non mai manierista, sempre molto secca, molto diretta. Io credo che quello sia l'esempio della capacità incredibile che può avere uno scrittore quando ha talento di scrivere davvero qualsiasi cosa. Giulio, c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti aggiungere dai microfoni di Radio Alma, brussellando? Ma io vorrei soprattutto fare un ringraziamento, e non è qualcosa di dovuto o di non sentito, a Michele Rossi e Stefano Izzo, che sono i due editor con cui io ho lavorato a Rizzoli, che sono veramente due persone eccezionali e che mi hanno anche saputo spingere a finire questo libro. Io dico sempre che in fondo se piace è merito di entrambi, se non piace è un po' pure colpa loro. Cerco anche di scaricare la responsabilità, però a parte scherzi, sono stati veramente due persone fantastiche con cui mi sono trovato benissimo, e quindi credo che sia doveroso un ringraziamento a loro, perché da editore, questo dico, spesso e volentieri gli autori si dimenticano anche di tutta l'attività che viene fatta all'interno della casa editrice, dalle persone che ci lavorano sopra, e quindi effettivamente il libro è sempre un lavoro a tante mani, a tanti occhi e a tante persone che si spendono per il successo, o semplicemente al di là del successo, che poi è una cosa che spesso non arriva in fondo nei libri e non è neanche determinante per la bontà del lavoro che si è fatto, però ecco, lo sforzo è un qualcosa che tanti fanno per far sì che un libro esista, che arrivi in mano a 100 o a 10.000 persone, cambia poco, ma che comunque abbia il suo percorso, e certe volte quindi è importante anche ricordarsi di chi si è sforzato, di chi ti ha supportato per riuscire ad arrivare in fondo al romanzo. Saluteresti i nostri amici all'ascolto con un pensiero? Come vuoi, un pensiero libero. Ma io, siccome abbiamo un pubblico, credo, soprattutto di appassionati, credo che la cosa più importante oggi per il nostro settore siano i lettori, siano assolutamente i lettori. Quindi io spero che anche tra, non solo oggi, ma anche tra 100 anni ancora sia interessante prendere tra le mani questo oggetto particolare che è un libro. E dico proprio libro non perché ce l'abbia con l'ebook, che è una cosa straordinaria, però io sono un grande appassionato dell'oggetto, cioè credo che in un libro cartaceo ci sia comunque un qualcosa in più, perché è qualcosa che possiamo tenere tra le mani, possiamo in qualche modo fare nostro e dargli un valore anche proprio di oggetto, cioè di qualcosa che riguardandolo dopo anni ci ricorda un'emozione particolare della nostra vita. E quindi mi auguro che per tutti gli ascoltatori ci sia un libro che anche tra 10 anni potranno prendere in mano e ricordarsi di qualcosa di bello che magari in quel momento, in quel giorno, in quell'anno li ha fatti stare bene. Quindi, cari amiche, cari amici, vi consiglio L'esatto contrario, edito da Rizzoli, per Rizzoli Narrativa, Giulio Perrone, questa volta nella sua veste di autore. Giulio, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. E chissà, magari ci ritroveremo in una delle prossime trasmissioni di Brussellando. Ma questo me lo auguro assolutamente, anche perché sono stato benissimo. E noi con te. Buona serata e a presto. Grazie ancora. Ciao. Cari amici e cari amiche, buonasera, ben ritrovati dopo il martedì scorso in cui avevamo avuto una trasmissione un po' ridotta. Scartamento ridotto, come il bellissimo Trenendolo Lomiti che non c'è più, ma mi piacerebbe vederlo un giorno, fare ciuf ciuf di nuovo sulla montagna, perché deve essere stata una vista bellissima, è rimasto solo uno dalle parti di Bolzano, se non vado errando. E vabbè, comunque questa volta invece cercheremo di stare nei tempi, cercheremo di avere una trasmissione un po' più dinamica, ma non troppo corta, ecco, sennò poi qualcuno di voi protesta e dice, ma insomma, vedo che non fate molte cose. E vabbè, io direi subito di cominciare, non abbiamo altro da dire o abbiamo da dire qualcos'altro? Ma sarà pur successo qualcosa questa settimana, no? Cioè, che cosa è successo, George? Ci sono delle cose, delle notizie da dire, dai, cioè, che cosa è successo questa settimana? Non lo so, non lo so, non lo so! È successo qualcosa, va bene, non è successo niente, va bene lo stesso, non lo so! Allora, se c'è qualcuno fra gli ascoltatori che sa perché ci ho già fatto così, che ci scriva pure. Sì, infatti dobbiamo, ai veri autori dobbiamo chiedere scusa, insomma, è una pallidissima imitazione, ma questa cosa ci piace tantissimo. Ora ci vorrebbe del vento, oppure una musichetta sotto, vabbè, non importa. Vabbè, quelli di voi che amano un po', diciamo così, la trasmissione un po'... molto regolari, diciamo un che po' chi ha i suoi alti e i suoi bassi, ma i suoi alti e i suoi bassi, sì, ma c'ha delle cose carine, c'ha delle cose carine che ci piacciono, e soprattutto la sono abilissimi, sono abilissimi, 50.000 personaggi in uno, sono bravissimi, io mi tolgo il cappello, e però non faccio nomi per il momento perché vediamo se li fate voi i nomi, però tanto ne riferiamo più avanti. Vabbè, comunque già 2 minuti sono passati e poi la gente mi picchia e mi dice tu parli sempre, forse è meglio se lasci passare qualcun altro che dice delle cose più interessanti. Ok, va bene. Ok, va bene. Vi lascio con le orecchie bene aperte, pulitele. Vi siete pulite le orecchie? Beh, allora prendete un cotton fioc e fate zip zip zip nell'orecchio perché è arrivato il momento tanto atteso da tutti voi. Finalmente io sto zitto e lascio la parola a Fiordaliso con Librangolo. E sono seduta da lei. Questo ci voleva Vince. Proprio. Vince. Sono seduta da lei. Tutto lo fai più bene, meglio di me. Più meglio, scusa. Cioè, o diciamo più meglio, o più diciamo meglio è brutto. Più meglio. Scusami. Comunque stasera non è che il mio librangolo è in tema, ma è piuttosto una cosa che è anche collegata un po' a notizie recenti, che era una cosa che ha sorpreso piuttosto me che altri. Cioè, ho letto una notizia su su Amal Alamuddin, che non so, cioè alcuni di voi sicuramente saprete di chi sto parlando della cara moglie di George Clooney. Amal Alamuddin, che ora si fa chiamare soprattutto Amal Clooney. Amal Clooney, dopo il famoso matrimonio. Suo marito, esatto. Dopo il matrimonio suo... che è venuto dove? A Venezia. Sei sicura? Abbastanza. Perché io non lo so, non lo so, non lo so! È venuta a Venezia? Bene, non è venuta a Venezia? Va bene lo stesso, non lo so! Vabbè, non ti preoccupare, perché c'è gente che lo sa invece di te. E quindi, come ben saprete, la moglie di George Clooney non è mica una leggerina... Ma non sembrava che pesasse così tanto. Così no, pesa pochissimo effettivamente, filiforme. Però secondo me molto filiforme, addirittura forse un po' troppo, ma lasciamo questo tipo di commenti. Cioè i suoi colleghi avvocati invece dicono che ha il cervello di come una Rolls Royce. Quindi se, lei è Cioè, una niente grosso. avvocatessa di primo ordine, Ah, in questo senso. che è in questo senso, Certo. che è brillante, che in più si impegna soprattutto per i diritti dell'uomo e rappresenta un sacco di casi che rappresentano una grossa sfida. E allora, ultimamente, lei ha studiato il caso dei marmi del Partenone che sono nella British Museum e ha scritto una relazione di Oimo. più o meno 150 pagine per il governo greco, cercando di convincerli di portare finalmente la rivendicazione di far ritornare questi marmi, Riportare a casa i di marmi, va bene. riportare a casa i marmi del Ridateci i Partenone. nostri marmi. Esatto. Cioè, di fronte alle corti internazionali. E, sorpresa, sorpresa, il governo greco ha detto di no. Non l'ho capito, cioè, lei ha detto vi offro Sì, gratis. no, no, lei ha detto, secondo me è il buon momento, guarda, io ho tutto un caso costruito, ve lo offro, se volete io vi rappresento. Sì. Cioè, lei fa anche iniziative, cioè, Il ultimamente governo. c'era anche un'altra iniziativa che insieme al suo marito ha cominciato Ciao una Giorgi, causa mi per viene. far riconoscere il genocidio degli armeni in Turchia. Cioè, lei fa delle cose, cioè non è semplicemente che sta aspettando che i casi cadano nel suo grembo e poi che succeda qualcosa. Se vede una cosa dove c'ha impegno, lei offre comunque Beh, si dà da fare, il no? suo Si butta impegno. da fare. Esatto. Ok. Ma perché questo è interessante per noi a Librangolo? Non lo so, mi sfugge, ma mi perprime il governo greco. Anche se li capisco, dicono sì, ci porti i marmi. Dove li mettiamo? No, Dove li c'hanno mettiamo? un museo tutto nuovo che è stato costruito esattamente con l'intento di far tornare i marmi. Perché già quelli che sono in possesso di Atene sono già esposti là e praticamente stanno aspettando i loro fratelli che si trovano al British Museum. Ma sembra un po' un'offesa che un'americana debba venire ad aiutare i greci che non riescono a farsi dare indietro i Anzi, marmi. una libanese. Una sì, vabbè, libanese, credo che sia lecito in americana. Non vorrei sbagliarmi, ma credo sia proprio così. Non ho studiato questa parte della Credo di sì, perché faccenda. se no non potrebbe fare, credo, esercitare la professione di avvocato negli Stati Uniti. Ma non sono sicuro, però certo, farsi rappresentare da un'americana e comunque da un libanese o comunque da una non greca. Per riavere dei marmi da un, tra virgolette, cugino europeo, perché l'Europa è una, sì, forse anch'io avrei detto, lei è molto gentile, la ringrazio, l'idea è buona, però forse non è proprio opportuno politicamente che venga un terzo. Non era questa la ragione, Ah almeno no? quella ufficiale. La ragione che ho letto in vari articoli era che il governo greco vorrebbe risolvere questa faccenda per vie diplomatiche e non vorrebbe andare di fronte alle corti internazionali, anche perché ha il sentimento che queste corti siano troppo influenzate dalle nazioni anglosassoni che sanno come vincere delle cause in queste corti. E quindi preferiscono cercare di risolvere la faccenda per vie diplomatiche, anche se queste vie diplomatiche fino adesso, anzi da 30 anni che ci stanno provando, La non vedo dura. la vedo dura anch'io. Cioè, i britannici comunque ci tengono, ma ci tengono Ci tengono ai loro marmi. ai loro Ci abbiamo dei marmi. Ecco. marmi, ce li teniamo. Chissà se ci restituirebbero la Gioconda. Restituirebbero la Gioconda all'Italia? Era una domanda da trabocchetto. È Era una una domanda da domanda trabocchetto che. perché la Gioconda non è mai stata italiana. Quindi è inutile restituire qualcosa a qualcuno che non l'ha mai posseduta. Anzi, si racconta di questa bellissima, che purtroppo mi ha fatto, faceva pure pena, quello che rubò la Gioconda per portarla finalmente in Italia, non mi ricordo più che mestiere faceva, credo che fosse un muratore, ma non ne sono certo, non mi ricordo più, ormai le mie cellule dedite alla memoria stanno andando a dormire o a morire, insomma, uno dei due, però lui portò questo quadro in Italia e lo consegnò, che non, il suo scopo non era venderlo, il suo scopo era ridarlo all'Italia, senza sapere che invece la Gioconda era stata dipinta ivi, ivi dipinta, ivi regalata, quindi l'Italia non poteva assolutamente pretendere null'altro, solo la paternità, che era appunto quella di Caravaggio, Dai, Tiziano. dai. Duccio da Buoninsegna. Da. Lorenzo Lotto. Da. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Vabbè, questo scherzo è durato più troppo. Comunque, una volta riconosciuta la paternità, tutto questo che possiamo, tutto ciò che possiamo chiedere è alla Gioconda, ma certamente non di farla trasferire in Italia. Però io spero che i marmi tornino in Grecia. Ma che c'entra Alamondi con i marmi greci? E o con... meglio, cosa c'entra tutto questo con Librangolo? Esatto, e questa è la domanda. E effettivamente, cioè proprio in questa settimana avevo letto un libro che racconta esattamente la storia del dei marmi greci. Pensavo di Amara Alamuddin. No, mi dispiace, cioè Amara Alamuddin non può ancora essere soggetta ad un libro storico. Mancava un pezzo l'altra volta del romanzo storico. Se voi vi ricordate, qualche settimana fa abbiamo parlato di romanzo storico. E ci mancava, c'era una cosa che mi girava nella testa, mi frullava, dico manca qualcosa. Certo, quando si dice, quello proprio romanzo è storico. Quindi si usa romanzo storico non nel senso di legato alla storia, ma nel senso che rimarrà nella storia. Come un romanzo cult, un romanzo storico. Mancava anche quello. Ah. Beh, intanto, cioè, a me adesso mi è frullato nella testa che i romanzi storici generalmente trattano di personaggi che sono già defunti. E la Amara Alamuddin, per fortuna, è in vita, è fra di noi e sta facendo le sue cose, che sa fare molto bene. E, però, ritornando dal nostro tema, cioè, avevo letto un libro che tratta proprio della storia di Lord Elgin, che era il famoso britannico che ha ottenuto i marmi per la Gran Bretagna. E da questo, quando uno legge un po' la storia, anche la vicenda attuale diventa molto più sfumata, diciamolo così. Non perché io abbia tutto questo rispetto per Lord Elgin, perché neanche il libro mostra molto o tanto rispetto per il Lord Elgin, ma è piuttosto che bisogna conoscere anche le circostanze. Cioè, questi marmi del Partenone, allora, al momento che la Gran Bretagna, o piuttosto Lord Elgin, ha cercato di ottenerli, in quel momento la Grecia era sotto dominio turco. E Lord Elgin era un ambasciatore dal Pascià, e che ha ottenuto l'autorizzazione del governo attuale, che era quello turco, di rimuovere i marmi e farsene quel che voleva, e ha anche pagato salatamente per questo privilegio. In più, andando al Partenone, cioè lui era mosso da un desiderio di salvare questo patrimonio artistico per il mondo, perché il Partenone stava pian piano, si stava distruggendo. Cioè, la storia ha già fatto le sue mosse attraverso le varie guerre, comunque parte del Partenone o del patrimonio artistico si era già distrutto. A questo si aggiungeva anche il modo in cui lo si trattava nell'Impero Ottomano, cioè praticamente in quel periodo un po' incendiario si usavano i marmi e le sculture che avevano dentro come spina dorsale, diciamolo così, dei pezzi di metallo, le si usava per fare delle pallottole per i fucili. Cioè praticamente si distruggeva le statue per ottenere il ferro piombo ivi contenuto e per farne delle pallottole. E in più c'erano addirittura un sacco di edifici che si costruivano macinando i marmi e facendone materiale di costruzione, quindi profanazione totale, cioè nessun rispetto. E in effetti agli occhi dei turchi... Come nella chimica. Sì, ma agli occhi dei turchi diciamo che le statue fantastiche di Fidia non contavano proprio un fico secco. E anche... Mi fa venire in mente qualcosa sui Buddha, ma meglio non entrare. Qualcuno ha distrutto delle statue di Buddha gigantesche facendole esplodere qualche anno fa. E mi chiedo veramente se questo non sia uno scempio totale. Beh, succede anche adesso. Diciamo che Diciamo che le guerre fanno delle cose bruttissime, lo facevano nel passato, lo fanno anche nel presente, e il Partenone rischiava di cadere in questo tranello. Quindi Lord Elgin poteva anche giustificatamente sentire di salvare i marmi, togliendoli dalla Grecia. Togliendoli dai turchi, diremo. Un'altra cosa che dobbiamo sapere è che in quel periodo, che è il periodo in cui del neoclassicismo, in cui si riscopriva l'antichità, e specialmente per l'architettura e le arti, si attingeva tantissimo come fonte di ispirazione all'antica Grecia, questa moda non era mica soltanto una cosa sentita dai britannici, anzi fra Napoleone e il regno della Gran Bretagna si contendevano i vari pezzi di storia rubati o comprati o comunque ottenuti da varie parti del mondo. Ed effettivamente, per esempio, c'era la Gran Bretagna che, per esempio, riusciva a mettere le mani su una delle navi di Napoleone, poi Napoleone riusciva a mettere le mani su un'altra nave, in cui, cioè, praticamente c'era il grande, cioè, la guerra non era soltanto fra Napoleone e Lord Nelson, ma la guerra c'era anche fra chi ottiene quello il marmo migliore? Non il marmo migliore, ma comunque il bottino più grande dell'eredità culturale che in quel momento contava di più. E in effetti anche Lord Elgin aveva questo obiettivo di far rifiorire le arti e l'architettura britannica attraverso i marmi. Però tentativo non riuscito, se ben ricordo. No, tentativo abbastanza riuscito. Se tu ci pensi, magari non ce la si ha più presente, ma per esempio già nel periodo nel periodo fine 700 inizio 800, comunque sia nella moda che nell'architettura che anche nell'arte in genere, cioè l'arte greca era una seria fonte di ispirazione, effettivamente, non è soltanto grazie ovviamente a Lord Elgin, e piuttosto che Lord Elgin personalmente non ha avuto una sorte facilissima, perché nonostante il fatto che lui con grandissimi sacrifici anche di denaro, non suoi ma piuttosto di sua moglie, di cui ve ne parlerò più in là, comunque ha portato questi marmi nella Gran Bretagna, però il governo, cioè non governo, il regno, i reggenti, non è che erano un po' tirchi, diciamolo così, quindi si iniziava a dire che questi marmi sono delle copie di opere di Fidia e non sono gli originali del Partenone, e quindi gli offrivano un prezzo proprio irrisorio per comprare i marmi. E nonostante il fatto che all'inizio Lord Elgin abbia anche provato di tenere duro e di cercare di dimostrare la sua ragione, alla fine dovette cedere e ha venduto i marmi al British Museum per un prezzo stracciatissimo. E poi al British Museum il giorno dopo ha detto: "Oh! Credevamo fossero falsi, invece no, sono veri." E vabbè, questo è proprio ciò che si dice: allevare le serpi in seno, oppure fratelli in armi, come si dice, fratelli nemici, insomma. Beh, diciamo che Lord Elgin era scozzese, quindi dilla tutta, dille le cose come vanno dette, dille. Lord Elgin era scozzese. Ah! E l'ha venduto al British Museum. Ah! Ecco. Vabbè, se l'avesse venduto in Scozia non avrebbe. No, magari avrebbero voluto, ma non avrebbero potuto. Sì, quindi, ma gli scozzesi neanche loro hanno proprio questa fama di correre dietro delle cose molto costose. No. Allora, torniamo dal libro. Cioè, praticamente questa cosa comunque mi ha dilettato un po', il fatto di trovare proprio nelle notizie attuali un collegamento con quello che stavo leggendo e ad un tratto sentirmi molto informata sull'argomento e sul background storico. adesso torniamo dal libro stesso, cioè si tratta di un libro di una scrittrice che si chiama Karen Essex e che si intitola Le due donne del Partenone, almeno è questo il titolo italiano, che a volte, devo dirlo, scusatemi, una critica, ma a volte gli italiani traducono i titoli dei romanzi in modo noioso. Com'era in inglese? Allora, non ho verificato quello in inglese, mi dispiace, ma quello ungherese, per esempio, dice il rapimento di Atene. Che è molto più... La rapina di Atene, rapinata? No, cioè Atene come dea, cioè come raffigurazione della dea che Atene. Tu stai rapendo, cioè praticamente... Il rapimento di Atene. Rapimento di Atene, che è molto più bello. Ma non è vero, perché era un rapimento, insomma, sangue, siete sempre così, cosa ci avete, cosa ci avete? Invece noi, le due donne, già crea una diatriba, lei di più, cosa lei, che lei chiede? No, perché vai da lei, vieni da me, insomma, le due donne crea, insomma, insomma, di triangolo e movimento. Un triangolo un po' attraverso la storia, perché le due donne di cui si tratta è Lady Elgin, cioè moglie di Lord Elgin, di cui sopra, e Aspasia, la compagna di Pericle. Aspasia, compagna di Pericle. Allora la donna, la moglie di Roegan, dice: ma scusa, vuoi me o lei? E lei è una statua di marmo. Che cos'ha lei più di me che io non ho? E viceversa, Aspasia dice a lui: cos'ha la tua moglie più di me che io, lei non te? Che ma mi stai complicando un po' le cose. Anche io non capisco bene le due donne. Comunque, prego. Le due donne, perché ovviamente quello che era responsabile per la costruzione di Partenone non era altri che Pericle. Pericle! Esatto, Pericle. Pericle! E Aspasia, invece, che era la sua compagna, aveva la fama di essere una brava filosofa, una donna molto saggia, che era addirittura in amicizia sia con Fidia che con, anche con Socrate, che in quei tempi stava facendo da allievo a Fidia. Magari voi lo sapete, io non lo sapevo perché da noi non si mette un accento così importante sull'educazione classica, sull'educazione classica, ma anche sulla filosofia. Comunque, Aspasia era una donna eccezionale ai suoi tempi e nel romanzo si fa anche una connessione fra di lei e i marmi di Partenone con la teoria che Fidia abbia preso come base alla raffigurazione della gigantesca Atene Aspasia stessa, non come lineamenti, ma piuttosto come saggezza trasmessa. E quindi nel romanzo Aspasia ha un sogno in cui vede Nemesi che si scaglia contro di lei, almeno lei sente che si scagli contro di lei, ma poi attraverso una saggia donna scopre che, cioè, vabbè, che lei, che Atene non si è arrabbiata con lei, ma si scaglierà contro qualcun altro, e quel qualcun altro non è altro che nella lontano futuro il Lord Elgin che cerca di portarsi via le marmi. E invece Lady Elgin è la sposa giovane scozzese e molto ricca che accompagna suo marito in Turchia e che si rivela anche lei una donna abbastanza eccezionale, cioè una donna che guadagna rispetto e affetto da parte per esempio dei governatori, dei illustri turchi e quindi riesce ad ottenere un sacco di cose che senza di lei non si sarebbero potute fare, e in più ha anche i soldi per finanziare questa disastrosa o comunque difficile impresa di ottenere i marmi. E comunque fra di lei e i marmi c'è un rapporto un po' di amicizia e inimicizia, diciamolo così, che comunque questo a lei comunque sembra un progetto molto faraonico, dispendioso. Faraonico, dispendioso e anche è anche non voluto, diciamo, cioè lei sente che c'è qualcosa, che c'è qualcosa nell'aria che non va bene, tutto sommato. E, e se uno segue, diciamo, il percorso di Elgin, ovviamente il romanzo collega i vari eventi e riesce a far capire che questo Lord Elgin dopo ha un sacco di sfiga, scusate per l'espressione, ma è così. È sfortunato. Poi avrà dei problemi anche nei matrimoni, che poi si separeranno, quindi Lady Elgin diventa anche una donna scandalosa, perché in quei tempi non è che si usava tanto divorziare e non si usava tanto risposarsi. Prende i soldi per innamorarsi di una statua di marmo, insomma uno dice vabbè, però cioè, è tutto, c'è un limite, no? Ah, tutto c'è un limite. E poi Lord Elgin, cioè, essendo una persona che spende un sacco di denaro, alla fine finirà a dover scappare a Parigi per scappare dai suoi creditori. Quindi un percorso non proprio dritto, dritto, dritto, diciamolo così. Un po' tortuoso. Però comunque la fama ce l'ha avuta, perché la sua collezione, cioè i marmi di Elgin, o la collezione Elgin, come si suole piuttosto chiamarlo in italiano, è ancora famoso, è nel British Museum, e il suo nome è rimasto qua per la posterità come sì, eroe magari un po' dubbioso, ma comunque eroe di del salvataggio, dobbiamo dire, di questi marmi. Non lo so. Cioè, vi raccomando piuttosto di leggere il libro, perché comunque è molto interessante. Anche se l'ho trovato a volte un po' superficiale, comunque gli eventi che narra sono interessanti. I due personaggi che sono al centro degli eventi sono anche se molto degni di attenzione e di interesse. E, quindi vi raccomando di leggere, non sarà una storia romantica, sarà piuttosto una storia che cerca di rappresentare delle sorti difficili, delle decisioni difficili e anche... No, non è romantico nel senso di sfida nei confronti della realtà, dell'impossibile, non è romantico nel senso di romanticismo. Sì, ma gli eroi romantici generalmente risultano simpatici. Ah sì? Eh sì, tendono. Io li trovo un po' insopportabili, però ognuno ha i suoi gusti. Ognuno ha i suoi gusti, però diciamo che, ecco, per me questo è un criterio e lui non lo soddisfa. Beh, e questa è la chiusura? Questa sarebbe la tua chiusa? Questa sarebbe, sì, più o meno la mia chiusa. Cioè, vi raccomando di leggere Le due donne del Partenone di Karen Essex e anche di seguire le notizie di quale sarà la sorte dei marmi di Partenone dopo questi secoli di impegno. Questi secoli sono stati privati, sono stati deportati altrove. Vabbè, chissà, forse il governo greco dovrebbe ripagare Lord Elgin però ha lo stesso valore che il British Museum ha pagato per i marmi. Cioè. Ah, questo sì, certo. Cioè, bisognerebbe pagarli come copie. Io se fossi il governo greco metterei delle copie al Partenone e direi che sono gli originali, quelle del British Museum sono delle copie. Vedere cosa succede, vedere se, insomma, rendendo il pan per focaccia qualcosa succede, sarebbe interessante, sarebbe molto bello. Che si scoprisse che veramente quelle del British sono solo delle copie. Sono delle copie, tanto abbiamo pagati poco, non ci perdiamo molto. E vabbè, sono dei grandi, non c'è niente da fare, sono veramente dei grandi, proprio l'inglese e tutto il mio rispetto di fronte a queste cose, sono abilissimi e di fronte all'abilità bisogna inchinarsi. Allora, prima di dire proprio addio, perché abbiamo pochissimo tempo, io volevo raccomandarvi uno che a partire dal 22 c'è il Jazz Marathon, quindi andate, guardate, sentite. Mancano pochi giorni! Poi c'è un'altra cosa che a me sta simpatica, che è il saggio della Scuola Superiore dell'Arte del Circo di Bruxelles, che fanno uno spettacolo a Les Halles, cioè vari spettacoli, dal mercoledì 27 fino a domenica 31 maggio. E ci sarà anche un sito. E c'è ovviamente anche il sito, cioè guardate semplicemente sul sito di Les Halles, quindi www.al.be, che secondo me dovrebbe essere una cosa carina. Bene, Bene, ma sicuramente carina perché a me piace tanto il circo e direi che il circo questa volta me lo vado a vedere. Ora mi formo e me lo vado a vedere. Ma noi veramente abbiamo scaduto il tempo, abbiamo veramente consumato tutto il tempo a disposizione, il tempo è scaduto. Allora, saluto Danny M in regia che ci ha seguito, che ci ha seguito finora, saluto Fiordaliso che ci ha parlato di Lord Enghie del Partenone, e saluto anche un piccolo saluto da parte mia e noi ci sentiamo martedì prossimo. Ciao a tutti!